Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera iniziamo parlando di un libro, diciamo così, di istruzioni per l'uso di come esportare e vendere negli Stati Uniti. Tra gli autori c'è Lucio Miranda. Buonasera Lucio Miranda. Buonasera, grazie dell'attenzione. Che è al telefono ovviamente dagli Stati Uniti, lo ringraziamo, è presidente di Export USA di New York, una società di consulenza export per vendere in America, e ha realizzato questo libro per le edizioni Oepli, Esportare e vendere negli Stati Uniti, come entrare con successo nel mercato più grande del mondo. Ecco, mi sembra che questo libro appunto fatti un po' un luogo comune, quello che per esportare dall'Italia bisogna guardare alla Cina, ai paesi emergenti, invece vuole dire ma tornate negli Stati Uniti a esportare, che in fondo appunto è il mercato più grande del mondo e ci sono le più grandi opportunità. E questa è la logica di questo libro, Lucio Miranda? Certo, e questa è la logica del libro. Gli Stati Uniti sono un mercato che si sta riprendendo, si è ripreso e offre delle ottime prospettive. Vorrei ricordare che gli studi dicono che entro il 2030 gli Stati Uniti diventerà quasi indipendente a livello energetico, e questo vorrà dire un cambiamento epocale nella struttura economica degli Stati Uniti, con una ripresa fortissima di consumi e la riduzione e l'abbattimento dei vari deficit, sia quello commerciale che quello federale per gli Stati Uniti. E rispetto agli altri paesi, noi di Export USA pensiamo che gli Stati Uniti offrano un'opportunità unica. Venire negli Stati Uniti in un certo senso è più facile che non andare in Brasile o in Cina. Le strutture del paese sono efficienti, sviluppate, esiste una certezza del diritto e, come dicevo prima, il mercato si è già ripreso e offre ottime prospettive per il futuro. Ecco, in Italia una delle lamentele degli imprenditori è quella dell'amministrazione, della burocrazia. Voi subito nelle prime pagine dite: rispetto all'Italia gli adempimenti burocratici sono ridotti al minimo, e questo è vero per qualsiasi aspetto della vita di una società, dalla costituzione della corporation alla preparazione del bilancio, alla dichiarazione dei redditi, fino alle operazioni di import con la dogana. Gli adempimenti sono così pochi che spesso i nostri clienti non riescono a credere che sia tutto già finito. È veramente un paradiso per la burocrazia, Lucio Miranda? Io penso che debba essere normalmente così il rapporto con la pubblica amministrazione. Rispetto all'Italia, gli Stati Uniti hanno un rapporto completamente diverso con la normativa. Mentre in Italia, ad esempio, è tutto molto basato, quasi tutto, sulle autorizzazioni preventive, in America la struttura, il rapporto è diverso. Quindi cosa succede? L'agenzia, prendiamo la Food and Drug Administration, con cui noi di Export USA lavoriamo spesso, la Food and Drug Administration pubblica le norme e dice: cari imprenditori, queste sono le norme per poter importare negli Stati Uniti, interpreta, capisci, adattati, fai come vuoi tu, ma queste sono le norme. E uno fa. Qual è il colpo d'ala qua rispetto all'Italia? Che questa è la norma, benissimo, nessuno ti dà delle autorizzazioni preventive, ma poi controllano. Quindi pubblico la norma, tutti adatti, attenzione che controllo veramente minuziosamente tutto quanto per vedere se tu sei veramente a norma e hai rispettato le regole. Quindi questo rende il tutto molto molto più snello. Ecco, ma un capitolo proprio di questo libro è dedicato a importare e vendere prodotti alimentari. Di solito si pensa che sia difficile vendere prodotti alimentari proprio per queste normative molto rigide, molto di garanzia per la salute, che escludono molti prodotti italiani, hanno escluso per lungo tempo per esempio i prosciutti italiani negli Stati Uniti. È vero che è possibile comunque esportare prodotti alimentari? Certo che è possibile. Noi come Export USA aiutiamo moltissime, anche piccole aziende italiane che vogliono esportare negli Stati Uniti e che quindi non hanno i mezzi delle grandi per poter imbastire grosse campagne di vendita e distribuzione. Come dicevo prima, il nodo per capire come fare è quello di rendersi conto di come funziona la normativa americana. La normativa americana funziona con quello che io chiamo il paradigma del libro. Cosa c'è scritto sul libro, a pagina 15, nel terzo paragrafo? C'è scritto che le etichette devono essere fatte così, 1, 2, 3, 4, 5, benissimo. Basta sapere cosa c'è scritto sul libro, seguire pedissequamente quello che c'è scritto sul libro e le difficoltà spariscono. Quindi è tutto molto chiaro, basta sapere cosa fare, come fare, ma è tutto molto chiaro e non c'è spazio per interpretazioni, non ci sono zone grigie, è tutto molto determinato. Esistono negli alimentari alcune aree un po' critiche, che sono quelle che ha citato lei, giustamente, quelle dei salumi. Sui salumi, effettivamente, la procedura per poter importare negli Stati Uniti è più complessa, perché è una delle poche aree in cui invece servono delle autorizzazioni preventive, per cui lo stabilimento di produzione va certificato e viene fatto di concerto tra le autorità sanitarie italiane e il Ministero dell'Agricoltura americano. Però esistono una dozzina di aziende italiane che hanno certificati, che hanno gli impianti certificati, che importano. È una procedura costosa, quindi non è alla portata di mano di tutti, questo è vero. Ecco, ma in questa prospettiva quali possono essere gli sviluppi possibili per le industrie italiane? Quali sono i settori che lei vede più facili da conquistare per le imprese italiane? E poi vorrei chiedere se il Made in Italy è ancora un vantaggio competitivo. Qui ad Exportusa vediamo parecchi settori, ci occupiamo di parecchi settori dell'economia. Direi che sta andando molto bene il settore dei beni industriali, trainato molto da quel fenomeno che in America viene chiamato reshoring, e quindi il ritorno della produzione dalla Cina in America. E quindi tutti i beni industriali che servono per supportare la ripresa di un manifatturiero che qui è stato falcidiato. Questo. Un altro settore che aiuta e dove le imprese italiane possono andare, stanno andando a traino molto bene, è quello dell'estrazione della ricerca petrolifera, per cui pensiamo a valvole, guarnizioni, condotti, software di controllo e cose di questo genere qua. Il design e il mobile, qui all'Exportusa abbiamo diverse aziende del design che stanno facendo molto bene, e naturalmente l'alimentare sempre. Per quanto riguarda moda e calzature c'è spazio, però bisogna rendersi conto che è un settore dove pubblicità, promozione e immagine sono molto importanti, e quindi chi vuole venire ad avere una possibilità di successo si deve mettere nell'ottica di investire anche in quel senso. Per ciò che riguarda il Made in Italy, è una cosa che diciamo sempre a tutti i nostri imprenditori qui all'Exportusa, è importante ma non è sufficiente, per cui pensare di riuscire ad avere successo soltanto perché si è Made in Italy non è quello il fattore, deve essere unito a tutta una serie di altre cose, packaging, prezzo, distribuzione, una strategia chiara, una mentalità da investimento in un certo senso. Allora, correlato di tutti questi altri elementi, il Made in Italy ha sicuramente un valore. Grazie mille a Lucio Miranda di averci illustrato questa situazione americana, queste prospettive positive dell'economia americana, con qualche indicazione utile per chi dall'Italia vuole sfruttare le occasioni di questo grande mercato. E nel libro, appunto, Esportare e vendere negli Stati Uniti, ci sono tutti i consigli utili, i pericoli da evitare e le opportunità da sfruttare per far sì che le esportazioni negli Stati Uniti possano avere successo. Vi ricordo il libro Esportare e vendere negli Stati Uniti, come entrare con successo nel mercato più grande del mondo, curato da Lucio Miranda, edito da Eupli. Sono 184 pagine per 18 euro. E dopo gli Stati Uniti torniamo all'Italia e parliamo di un libro che raccoglie tre scritti di Giorgio Fua, economista scomparso nel 2000, che ha lasciato comunque una traccia molto solida all'interno del pensiero economico italiano. Allora, curato da Valeriano Ballone, Marco Crivellini e Paolo Pettenati, è uscito questo libro per l'edizione del Mulino, che si intitola Un'agenda non conformista per la crescita economica. Un libro che raccoglie tre scritti, appunto, di Giorgio Fua, tre scritti molto attuali, anche se risalgono a più di 20 anni fa, soprattutto l'ultimo scritto, quello dedicato alle tasse e all'imposizione, può essere letto come se fosse stato scritto ieri, perché purtroppo oggi i problemi sono ancora quelli di 20 anni fa, i problemi di una tassazione troppo forte, i problemi di una tassazione troppo squilibrata sul lavoro, una tassazione che non trova alternative di fronte a una politica che non sa tagliare le spese, e il richiamo di Fua è ancora molto attuale. Il libro si intitola Un'agenda non conformista per la crescita economica, edito dal Mulino, costa 13 euro ed ha 114 pagine. Si conclude qui Economia in pagine. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Ringrazio Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione.